da ciechi. Quel nudo lucente è un airon. Airon! Airon! Airon! Airon! Airon! Airon! Come costa il falcon? Qual più feroce uomo d'auge o rapace e questo e quello a suo fratello noce e l'uno l'altro scaltro a suo fratello soggiace.